Gli altri capi in gara come erano secondo lei? Ce n'erano dentro tanti, ma erano abbastanza piccoli. Non erano bestie grandi. Erano, sono diventati un po' piccoli. Sono diventati. Fuoco alle polveri. Go Hal Paul Very Radio Bomba. This is Radio Bomba. Beh. Beh, che citazione iniziale. Una bella bestia. È una bella bestia. Buonasera e benvenuti tutti alla 61esima puntata di Fuoco alle Polveri, ragazzi. Attenzione. Numeroni. Numeroni. E 61 come? 61 come? Allora, 61 come il 61 avanti Cristo. Lo sai cosa è successo il 61 avanti Cristo? Cosa? Allora, praticamente Tigrane VI, re cliente di Roma, attacca il regno di Adiabene. Re cliente? Sì, re cliente. Ora, non te lo chiediamo, va bene. No, no, il re cliente vuol dire praticamente andava a fare la spesa a Roma. Ah, era un re cliente, esatto. Attacca il regno di Adiabene. Intanto però Gneo Domizio Corbulone chiede a Roma un comando separato per l'Armenia e inizia a trattare con Vologase I, re dei Parti, per ritirare congiuntamente dall'Armenia le rispettive truppe. Lo sapevate? No. Questa puzza di... di ultimo momento. Ultimo minuto. Questa puzza un po' di ultimo momento. Sembra che il livello sia altissimo già dal... Non funziona. Non ci sono più. Livello altissimo, ecco, fin dall'inizio. Dicevo, di cosa, livello inizio. A parte le belle bestie, di cosa parliamo oggi? Allora, oggi abbiamo la registrazione di un dibattito avvenuto in Polveriera settimana scorsa, sabato scorso. Intorno poi ne parliamo, insomma, sul festival Fame di, Fame di Street Art. Festival ormai concluso da tempo. Anni. Ma è Fame, una o bella Fame? Storia. No, Fame, Fame. Fame. Okay. È Fame. Poi parleremo del Festival di Letteratura Sociale prossimo Venturo, che si avvicina. Beh, di cui è uscito, se non sbaglio, il programma, bello. Quindi sembra. Inizieremo a parlare anche facendo delle piccole letture dai libri che verranno presentati. E poi cosa facciamo? Abbiamo le nostre rubriche, ottime. Rubriche. Ottime rubriche fatte in casa, PDP, in PDP, potere pedali, sì. Ogora Pets e certo, Yuri, puntata strepitosa oggi, non mancate. Strepitosa. Non mancate, amici. No, non mancate. E poi forse parliamo anche un po' della nostra città, sì, di Firenze, il nostro sindaco. Un paio di notizie simpatiche, molto. Detto questo, ci andiamo subito a riposare e io salto tutto. Non lo devi toccare. Salta tutto, ma guarda. Guardare ma non toccare. Microfono. E vabbè, mandiamo una canzone. Beh, dai. Combat Wombat. Wombat Wombat. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Roll another one. Just like the other one. You've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. another one. Just like the other one. That one's just about burned to the end. So come on and be a real friend. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Everybody sing along this time. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. No, dico, era sì, facente parte della colonna sonora di Easy Rider. Che pezzaccio anche ora, a ripetizione. Mamma mia, in formissima Grippo oggi. Grande forma. Grande forma per lui. E di che parliamo ora? Dicevamo che volevamo parlare di questa... Iniziare... Sì, ma fai te, perché devo stare immobile, non posso più respirare. Devi fare... Quindi, vabbè, iniziamo a parlare di questa iniziativa che c'è stata, giusto? Sì, sì. Del Fame Festival, che è stato ospitato appunto negli spazi della Polvere Spazio Comune, Angelo Milani, che Milano, è, Milano, esatto. Scusami, Milano, sì, che è stato il fondatore, il perneo centrale su cui si è mosso tutto il Festival Fame, che è questo festival che si è sviluppato, è partito dal 2007-2008, dall'estate del 2008 in quel di Puglia, a Grottaglie. Grottaglie, sì. A Grottaglie, che è un paesino molto carino. Nella iniziativa sono stati proiettati dei video che spiegavano un po' il tutto dal 2007, dal 2008 fondamentalmente. Molto carini, in cui faceva vedere come erano partiti. Era molto bella la motivazione, cioè che erano partiti perché si annoiavano un sacco, sì, e volevano, esatto, fare qualcosa con i suoi amici. Un suo amico era appunto Eric Alcane, un suo compaesano, con cui per finanziarsi per, per la prima edizione hanno appunto cominciato a stampare serigrafie di disegni di Eric Alcane, e con quei soldi hanno potuto iniziare il festival. Questo festival, che era un bellissimo festival, che appunto è stato bloccato per dei motivi che poi un contributo audio, sì, insomma, con le sue stesse parole ci spiegherà perché è stato bloccato all'apice del successo, fondamentalmente. È durato, penso, fino a 4 edizioni, mi pare. Ora non me lo ricordo, però. Comunque, dal 2008 fino al 2012, pare, esatto, mi sembra. Sa 4. E niente, in pieno spirito punk, anche lui rivendicava giustamente, sempre rivendicare le radici punk. E niente, appunto, un festival che portava a Grottaglie, in questo paesino in mezzo alla campagna, in provincia di Taranto, esatto, in compagnia dell'Ilva, quanta roba c'è. Portava artisti internazionali, li portava lì, li faceva dialogare col paese in un dialogo molto aperto e molto schietto anche con la popolazione, con varie storie di vicissitudini molto divertenti con l'amministrazione pubblica, e ebbe il picco della sua intelligenza nel cancellare un disegno di Eric Alcane della prima edizione. Esatto. E cancellarlo, ricoprirlo dopo poco, sì, quando, e poi, se non dopo poco, richiederlo, tornare a richiedere, ma non è che ce lo rifate, perché abbiamo sbagliato. E quindi no, molto buffo, raccontava diverse storie. Sì, anche soprattutto il... Non funziona. Funziona male tutto, scusateci. Qui su Radio Wombat, porco Dio, su Radio Wombat, possiamo dire tranquillamente. No, era anche divertente sentire dell'interfacciarsi di questa organizzazione, comunque di questo festival, sì, con l'amministrazione locale, che viene ignorante, poco lungimirante, non sapevano semplicemente, esatto, di cosa stavano parlando. E a un certo punto ti raccontava che, mi pare, alla seconda o terza edizione del festival avessero avanzato la richiesta di entrare a far parte, di aiutarli con tipo la cifra di 1000 euro simbolica, e hanno detto anche no. Nello stesso anno in cui, molto divertente, era nello stesso anno in cui la stessa amministrazione aveva stanziato 15.000 euro per una mostra di un tizio bellissimo che si spaccia per il figlio di Salvador Dalì. Un tizio grassottello che fa dipinti uguali a Salvador Dalì, che si chiama Dalì 2, tipo. Ma sì, che nessuno, cioè tipo le fondazioni di Dalì, insomma, dicono non esiste, cioè boh, non sappiamo niente di questo figlio fondamentalmente, quindi boh, chissà. E questa stessa amministrazione, che non dava nessun apporto, aiuto a fame, cercava di entrare in questo modo qui, no? Insomma, era un po', faceva molto ridere. Come sempre, quindi, la partenza è che tutto ciò che non rientrava all'interno di ciò che l'amministrazione aveva creato di per sé andava eliminato. Sì, senza sì, neanche era pericoloso. Cioè, se non era una cosa sotto controllo, era una cosa pericolosa, diciamo, no? Esatto. Come sempre. Però la parte un po' più divertente di tutta questa storia, nel senso che questo è un po' tutti i festival di street art, è un po' il tema della street art a giro per l'Italia. E penso non solo sia quello della legittimazione, non legittimazione, del poterlo fare o non poterlo fare. Qui la parte divertente è che un festival all'apice del suo successo, nel momento in cui ha ricevuto il benestare dei di stampa amministrazione internazionale, locale, stampa internazionale, personalità, artisti, eccetera, eccetera, schifato da questo riconoscimento, turbato profondamente da tutto questo riconoscimento, decide di... Perché ora, penso, appunto, nel contributo mi sembra ne parli, sì, no? Sì, forse sì, tagliamo un po' a caso. Comunque sì, era divertente perché appunto raccontava questo fatto qui, cioè che il fatto che in una delle edizioni, nell'ultima edizione che hanno fatto, da subito tutti gli artisti che avevano contattato gli hanno detto: guardate, bisogna fare i vandali, cioè bisogna fare le cose peggiori che si venga in mente, andare con le bombollette a sbombollettare a caso, esatto. Comunque, e la cosa divertente è che nel video si vedeva appunto un proprietario di una casa a cui avevano completamente imbrattato con bombollette a caso nere, proprio completamente a caso sì, sì. La facciata, era contento, sì. Diceva buono, bello, esatto, perché? Perché lui lo ricollegava a una sudditanza culturale autoimposta del sud Italia, insomma della provincia, diciamo, lui lo scollegava dal discorso centro-provincia. È vero, ma da nord-sud, ma fondamentalmente dal nord-sud, sì, la attaccava un po' di più, nel senso che chiunque qualunque cosa venga da fuori, dal nord del mondo, sia per forza migliore, esatto. E non debba essere analizzata insieme, ma debba essere presa a priori come una, esatto, grande verità. Questo ce l'abbiamo. E infatti anche appunto nel momento in cui la diceva della gallery su Repubblica. Sito di Repubblica, parlava di questo festival come migliore, uno dei migliori, a quel punto anche si ritrovava la casa imbrattata completamente a caso, era contento perché, certo, faceva parte di quella cosa lì. E quindi di fronte, assurdo, a tutto questo hanno deciso nel 2012 di chiudere Baracca Burattini, certo. Questo festival non esiste più, no, cancellato, fine festival. Comunque ci riserviamo delle chiacchiericce anche successive, ci possiamo ascoltare intanto il contributo di Angelo audio. direttamente, sì. via Wombat. Siamo esattamente quello che stiamo dicendo, nel momento dell'assorbimento, che poi non è che si assorbe e poi basta, si assorbe e poi comincia a diventare soldi, comincia a diventare interessi, comincia a diventare, e si trasforma male, inevitabilmente. A Firenze c'è uno street art hostel, per dirti, ma cioè, te ne posso dire, guarda, quante, ogni giorno è proprio quotidiano, non c'è proprio limite al peggio da questo punto di vista. Sì. Però il discorso è, Va bene che sia morta questa cosa, però è che anche questo è il senso del film. Continuare col festival sarebbe stato rendere una cosa relativamente fresca, prassi, cioè portarla avanti, sì, negli anni, farla diventare uguale a se stessa, sì. È muta anche lei. Invece col cazzo ho detto, cioè, abbiamo fatto una cosa bella, ci siamo divertiti, abbiamo fatto, la facciamo finire quando è ancora viva, senza, cioè, perché effettivamente a me fruttava un sacco di soldi e poteva diventare una di quelle cose, lei proprio... quelle con i banneroni degli sponsor, venite, datemi tutti i cazzo soldi, così poteva diventare, stava diventando proprio quella roba là, cioè le amministrazioni degli altri paesi che mi chiamavano, dicevano quanto vuoi per fare questa cosa, cioè era successo proprio un fenomeno interessante, però non aveva tanto senso a livello proprio, se, nel momento in cui credi di fare cose che ti piacciono davvero. Ed è così che abbiamo finito il cazzo di festival, fatto il film documentato e siamo arrivati fino a qua, siamo contenti? Sì. Una cosa bella, sono contento che l'abbiamo proiettato anche qua, perché tipo anche a Firenze il contesto precedente era super fighetto, super pettinato, e invece mi piace portarlo anche in ambienti così di gente che sta male. In tutto ciò, no, in tutto ciò, cioè, in quel contesto lì c'era appunto amministrazione, sindaco, sì, appunto. Quando Firenze c'ha appunto i suoi angeli del bello che coprono per il decoro, insomma. Certo. E quindi c'è l'assurdità di anche del contesto precedente, insomma. Però anche quando quella roba là, cioè io capisco. Io non l'ho capita. Capisco che vuol dire tu. Che assurdo, però invece noi ormai tutto una poltiglia di merda così grande, non si può proprio più ricavare un senso, non c'è proprio più un modo di guardare la cosa in maniera oggettiva, cioè nel momento in cui è così diffusa che anche la tua vicina di casa di 90 anni può dire una cosa ed è altrettanto autoritaria quanto quella dell'artista, capito? Cioè ormai non ha proprio più senso, zero, basta, secondo me, basta tutto di dipingere i muri, onestamente. A meno che non vuoi fare quelle cose di cui parlava la mia nostra amica prima, che sono molto più... Io quando vedo le cose proprio brutte, dico, mi tranquillizzo un attimo, mi sento bene, mi sento che qualcuno ha fatto qualcosa perché veramente lo voleva fare. Che è un po' come quando vai a cagare, no? Che lo devi fare per forza, non perché se pensa, ma la faccio bella, ma la faccio così. No, è così. È un istinto e c'è chi se lo lascia, c'è chi se lo può permettere, mettila così. Prossimo progetto? Secondo me l'arte non è la bellezza, la bellezza è l'anti-arte, la decorazione può essere la bellezza. Come Murales di adesso, che ti fa il bel disegno e siamo tutti contenti, e ci abbiamo detto niente, ci abbiamo fatto niente. Cioè non è, comunque non... Come devo dire? Meglio di un muro bianco? No, sono convinto che il muro bianco dica più cose. Al momento, purtroppo, per quello che è successo adesso, secondo me, in questo genere, che gli artisti sono diventati così, proprio che anche solo il sentimento populista agevolatissimo da Facebook, da internet, sai, tipo che l'arte pubblica sta salvando il mondo, che ovviamente non salva proprio uno cazzo, e soprattutto il disegno in periferia non renderà la periferia migliore, semmai renderà migliore il profilo dell'artista da un certo punto di vista. Cioè, un muro dipinto non cambia niente, tutte queste pappardelle di riqualificazione urbana, queste cose sono solo discorsi o di gente piena di energia idealista, e là ci sto, sono contentissimo, la gente si sbatte per cose, o di gente che deve vendere il progetto a un'amministrazione locale, si deve far dare 1.000 euro e deve dire sì, noi stiamo riqualificando il quartiere, ma che cosa stai riqualificando? Una volta hai fatto il disegno sul muro, non è che finisce il palazzo finisce di avere problemi strutturali, certo. O problemi di che cazzo ne so. Cioè, secondo me l'arte pubblica al momento è in una fase di morte totale. E quando c'è stato un momento positivo in cui si potevano dire e fare cose interessanti, si è esaurito tutto molto velocemente, perché purtroppo ormai siamo in una generazione di consumo troppo rapido, non c'è proprio tempo perché le cose si sviluppino in maniera orizzontale, in maniera, come devo dire, anche solo analogica, capito? Ormai è proprio tipo da qua, cioè io ti faccio un muro qua, lo vedo in America, domani mi invito in America a fare un muro. Anche gli artisti stessi non hanno proprio più il tempo per produrre in maniera sensata. Cioè, anche l'ultimo anno notavo, io venivano gli artisti, i primi anni magari stavano a grottaglio, sai, si immergevano nel contesto, guardavano dove cazzo sto, che cosa sto facendo, questa è la casa della vecchia, alla vecchia non è che gli dipingo un carro armato gigante perché sto pensando alla Siria, per dire. Cioè, alla vecchia gli dipingo una cosa che magari è compatibile col fatto che lei si è costruita una casa in 50 anni di vita, capito? Quindi il contesto era importante. Mo' invece girano, c'hanno lo sketchbook, guardano il formato del muro, dicono, ah, questo stai buono qua. Scelgono il disegno, fanno il disegno sul muro e se ne vanno al prossimo paese, per dirti, non ha... Scusa, questa cosa che noi di cui parliamo semplicemente è uno dei processi che attua la cultura dominante per riappropriarsi, anzi appropriarsi di tutto il prodotto della, certo, cultura popolare. Certo. Questa cosa che stai dicendo esattamente come la stai descrivendo succede in architettura da circa... Ma non si può, in musica succede, cioè, comunque, cioè. L'architetto che arriva e fa l'oggetto a grande scala di design è la rappresentazione del suo ego, non è un processo di catarsi. Se, cioè, capisco il discorso dell'età, perché comunque sono un modo, magari magari non di creare una riflessione profonda, ma sicuramente di esprimere il bisogno di relazionarsi con un posto dove sei, sì, di lasciarti, di avere un segno, e quindi di fatto sono un effetto di ritorno dell'anonimato, sì, del, sì, sì, un senso di non appartenenza. Quindi cerchi più opera d'arte, magari appunto è un segno proprio. Dipende da come la vedi, puoi anche vedere una cosa d'arte in realtà. Però sì, cioè, nel discorso appunto del fatto di non essere stati capiti, nel momento in cui uno fa comunque delle cose provocatorie, cioè appunto capisco il discorso in cui uno ha un certo senso di inferiorità, per cui nel momento in cui un critico d'arte inizia a dire che quello è bello, io capisco anche che la persona del paese, cioè, non si attenti a uscire a dire così, perché poi dopo si sta mettendo contro il critico d'arte, quindi di qua ha paura, no? È un po', non è un peccato, è un po' inibito. Però tipo, forse la domanda è se queste opere dovevano far riflettere, che dovevano far arrivare le persone a crescere, no? Da arrivare sotto questi profili qua, cioè, attraverso l'incazzatura oppure tutto il resto, però insomma, quindi vuol dire che di fatto non sono riuscite ad arrivare a questo obiettivo. Non sono riuscite perché tu, da come l'avevi detto tu, sembra quasi che dovessero essere didascaliche, tipo come se dovessimo scrivere su muri: ragazzi, non guardate le opere per quello che vi hanno detto che sono, guardate per quelle che voi pensate che siano. Invece no, cioè il discorso è, non è che noi stavamo cercando di andare incontro all'interlocutore, noi stavamo facendo un atto, volevo dire, cioè una presa di posizione violenta. Io, a me sembrava così, perché mo' l'unica cosa che salvo di tutta quella retorica dell'arte pubblica, di riappropriarci del nostro spazio, quelle cose là, quella devo dire ancora che me la sento un po' vera, nel senso, io Grottaglia me la sono sempre sentita mia, ma mia proprio, cioè come se solo, cioè non solo mia, ogni Grottaglia si può dire solo mia, secondo me, e io me la sentivo mia, perché nessuno mi doveva dire che cosa devo fare io in giro per Grottaglia. Quindi in quel momento là noi facevamo quella cosa là, ed era effettivamente un discorso di riappropriazione di uno spazio pubblico, perché io lo attraverso ogni giorno ed è anche mio, quello mi sentivo di fare io. Nel momento in cui ci facciamo queste cose che erano appunto esposte, erano all'esterno, c'era l'interlocutore. Quando tu dici che abbiamo fallito, io non la vedo proprio così nella comunicazione, nella spiegazione. Però noi, perché noi non volevamo insegnare niente a nessuno, noi, per quello il discorso, noi non stavamo nella posizione superiore e l'osservatore inferiore. Noi, per me era proprio tutto un marasma, che ognuno poteva fare che cazzo voleva. Per quello dico, non è che penso che noi stavamo cercando di insegnare qualcosa, o che penso che... Perché doveva generarci, perché si generava un dibattito. Come, ti dico, guarda, scusa, allora, se interrompo, il primo anno per esempio nel disastro, che nessuno capiva un cazzo, se ne venivano e ci facevano queste tre domande, sempre, quasi sempre queste, ed era per me era proprio un allarme, un segnale d'allarme enorme su proprio su come viviamo la città o anche la vita proprio. Se ne venivano e facevano: chi vi autorizza? Ci avete l'autorizzazione? Prima domanda, quindi autorità, repressione, così. La seconda domanda era sempre chi vi paga, quindi retribuzione, quindi autorità, soldi. E la terza domanda era chi ha vinto l'anno scorso. La competizione, capito? Queste tre cose erano le tre categorie per le quali proprio riuscivano a identificare quello che stavamo facendo. Capisci che non c'è effettivamente lo spazio per... Non volevamo parlarci, onestamente. Cioè io volevo fare quello che volevo io e loro potevano fare quello che volevano loro. Tant'è, quando ci hanno cancellato il pezzo, ma mica me ne è fregato niente, io mica mi sono sentito offeso, o mi sono sentito... Cioè, ho detto, meglio così, hanno fatto una cosa loro, una cazzata loro, ma ne facciamo altre 300 noi, capito? Quindi... Ma non lo so, non mi sento che abbiamo fallito nello scopo, che in quello che stiamo facendo. Secondo me quello che stiamo facendo l'abbiamo fatto fino all'ultimo come lo volevamo fare. Avremmo fallito se l'avessimo portato avanti in modo inutile, secondo me. Ma tu sei sicuro che sarebbe... La versione capitalista del turismo, no? Cioè, quindi estrarre valore da qualcosa che è quella, la parte in questo caso, cioè la possibilità del turismo, quella di andare ad attaccare una cosa che fino a un certo punto era stata comunque mantenuta al di fuori di queste logiche. È ovvio che però, per esempio, le persone che vengono a casa tua stanno entrando in contatto con quella realtà, però non lo stanno facendo secondo quella logica. Io credo che per esempio appunto non so se serve una parola diversa o se si altro che anche definire l'ambito del turismo, però lo scambio invece è uno scambio, però cioè è un, più uno scambio, sì. Cioè, per dirti, chi viene, gli artisti non si può proprio parlare di turismo perché è proprio una questione che vengono a vivere là, vengono veramente a fare la vita che facciamo noi, stanno a casa, come un altro, mi sembra un altro discorso. E la gente che veniva per il festival non saprei dove metterla nei confronti del turismo, perché comunque non era manco, una quest- non era manco un turismo permanente quasi sempre, non era, manco, era solo di passaggio. Grottaglie soffre da sempre di questa cosa che è un turismo di alternativa, no? A Grottaglie si viene al quartiere delle ceramiche nella giornata di pioggia estiva, quando non puoi andare al mare, c'è cazzo, ma fa guardare la guida, c'è, c'è questo paese dove fanno le ceramiche, vanno, vengono a Grottaglie, no? E la stessa cosa era col festival, insomma, venivano, però non è che dici, si fermavano a dormire, consumavano, cioè, era più una cosa tipo, andiamo a vedere di passaggio questa cosa e poi andiamo a Melpignano, la notte della Taranta, capito? C'era, era entrato sulla mappa del, delle cose da fare, mettila così. Quindi non, e poi quando si parla di turismo, secondo me non è manco più una questione di capitalismo, come dicevi tu, secondo me il turismo di adesso è proprio razzia, cioè vanno, spaccano tutto e se ne vanno. Non c'è proprio tempo, non c'è proprio modo di consumarlo in maniera insomma, di, responsabile. Non lo so, secondo me siamo messi male, male, male. Non so se ho capito, se ho colto quello che dimmi tu, però dalle parole che hai citato mi viene da, da risponderti così. Non lo so. Tutto, ci sono gli ati, devo bere le birrette. Grazie ragazzi, grazie ancora. Anche le foche bevono Radio Wombat. Rieccoci qua. Vai. Sì. Dopo le parole proprio di Angelo, quindi. Sì. Dopo le parole, comico e divertente, devo sì, dire. Era un personaggio, cioè un ragazzo molto divertente, molto in gamba, si vedeva subito, insomma, appena cominciava a parlare si capiva no, subito. No, ma io dico proprio anche al di là della vicissitudine, ecco, cioè la, quello che è successo, appunto, alle tre domande anche. Ah, sì, sì, no, interessante, molto interessante. Questa intervista penso sia anche, non so se c'è già, ma ci sarà su Wombat. Forse. Sul sito Wombat come podcastino. Forse, non lo sappiamo forse, ancora. Non ancora. Vabbè, forse dove, ci sarà. Sì, dai, lo mettiamo. Penso proprio lo mettiamo. Che sono, fra l'altro, colgo l'occasione per. Cioè, nel sito Wombat ci sono un sacco di registrazioni, podcast, di presentazioni, di libri, sì. Di film, qualsiasi cosa, tutto quello che viene fatto in molti spazi sociali. È vero. E sono molto interessanti. Cioè, andatevelo a cercare, non. Sì. E sentitevele, cioè magari è roba anche di un'ora, tavoli, tavole rotonde, mi viene in mente anche tutto un evento che ci fu in polveriera qualche mese fa sulla repressione, sempre sì, in ambito artistico, c'è molto tutto. Interessanti. C'è tutto. E ascoltateveli, insomma, consiglio. Molto bene, molto bene. E andiamo avanti, direi, sì. Rispetto a... Ringraziamo di nuovo Angelo. Angelo, sì, sì, sì. Grazie. Mandiamo una canzone. Che ce ne frega a noi? Ma sì, un po' di musica. Vai, vai. Ah, radio. Ah, radio. Ah, radio, raga. We'll be right back. Yuri! Yuri! Oh! Che c'è? Dai che c'è il festival! Dal 17 al 20 maggio presso la Polveriera Spazio Comune, terza edizione del Festival di Letteratura Sociale. Presentazioni, dibattiti, concerti, spettacoli, banchini ed esposizioni. Con la partecipazione di Alberto Prunetti, Davide Grasso, Marta Fana, Ilaria Agostini, Lello Voce, Edoardo Rialti, Valli Santoni e molti altri. Programma completo su lapolveriera.noblogs.org. Pensavate, quello dei Balcani. Scusate. E invece no, invece no. Come abbiamo detto prima, del Festival della Letteratura Sociale, che si terrà in quel di Polveriera dal 17 al 20 maggio di quest'anno 2018. Esatto. Terza edizione. Terza edizione. Picco di voce. Picco di voce, picco di voce, picco di voce. Troppo lontano il microfono, più vicino. No, va bene, ragazzi, va bene. Non ci perdiamo in questo. Allora, come avevamo anticipato, andiamo un po' a raccontare, visto che è uscito veramente da poco. Da qualche giorno è uscito il programma. Programma completo. Ufficiale anche, se lo vuoi dire. Ufficioso. No, ufficioso no, è ufficiale. Autorevolmente ufficiale. Allora, parto, intanto leggiamo, è evidente. Ok, giovedì, giovedì 17 maggio, dalle 17:30... Immaginari sovversivi, a partire dalla presentazione del libro L'Impero del Sogno di con l'autore Vanni Santoni e la partecipazione di Silvio Costantino, Francesco Disa e Edoardo Rialti. Alle 19 invece vai. Si va con la presentazione dell'Amore a 20 anni, pubblicato da Tunue, con l'autore Biferali, sì. Giorgio Biferali. Biferali. Alle 20 cena. Ci sarà la cena, che penso sarà una costante di tutti e quattro i giorni. Si magna. Come è giusto che sia. Come è giusto che sia. Alle 21 ci sarà una proiezione di un'intervista a David Bookchin, di cui tra l'altro è stato già presentato il libro sì. In Polveriera qualche settimana fa. Sì, perché con la figlia. Vi ricordiamo che nel mentre in Polveriera, l'abbiamo già detto diverse volte, stanno avvenendo delle presentazioni in vista in preparazione proprio del festival. Sì. Esatto. Quindi non perdetevi anche questo, diciamo, pre-festival. Sì, ce ne sono state diverse, la Guerra dei Meme, Bookchin. Esatto. The Bookchin e The Guerra dei Meme, tra l'altro trovate il podcast sempre sulla sezione speciali del sito di Radio Wombat. Del Wombat Wombat. Cliccate su podcast, scende la tendina, trovate speciali, cliccate, trovate tutto. Bene. Quindi sempre giovedì, dopo la proiezione dell'intervista a Debbie Bookchin, che è la figlia di Bookchin, sì. Alle 21:30 si va a teatro, con lo spettacolo Non era che l'inizio, a cura della Polvera Teatro e Altro Teatro, Associazione Culturale di Firenze. Ottimo. Il giorno dopo, che è venerdì 18 maggio, si parte alle 16 con una presentazione della Guida alla Firenze Ribelle, pubblicata da Volant, con l'autore Michelucci. Poi a seguire subito alle 17 l'Educazione Incidentale, di Colin Ward, un nome abbastanza, con il curatore Codello, F, non so il nome. Nemmeno io, però, ok. Filippo Francesco, non lo so. Pubblicato dalle Lutera l'anno scorso. Dalle 18 invece un tavolo che dal titolo La città e l'accoglienza, a partire dalla presentazione di due testi. Uno è Abbandoni, assembramenti umani e spazi urbani, di Antonella Romeo, e un altro libro, La città e l'accoglienza, pubblicato a Manifesto Libri, con le autrici Ilaria Agostini e Scandurra. Ok, quindi questo sarà un tavolo aperto, una discussione sulla città e l'accoglienza, sì, in questo periodo. A seguire invece sempre una presentazione, una discussione a partire dalla presentazione di un libro, che è Guerre di Rete di Carola Frediani, insieme a esponenti di autistici inventati, conoscitori dell'esperienza importantissima internazionalmente e italiana e fiorentina di autistici inventati. Ottimo. Allora, cena, bene. Quella costante. E la sera dalle 21 ci sarà sempre a partire dalla presentazione di due libri. Uno è Datacrazia di Daniele Gambetta. A cura di Daniele Gambetta, che è un cura di Daniele Gambetta. un contenitore di vari articoli Bene. Scritti da vari personaggi italiani e Bene. Non. E il nuovissimo Cometa di Magini, pubblicato da Neo, ancora non pubblicato da Neo tra l'altro, in uscita. E la presentazione di questi due libri porteranno a una discussione su big data, individui e il nostro mondo contemporaneo. Sì, roba importante di parlare. Roba abbastanza importante. Si passa al sabato. Sabato 19, che inizia alle 4. Sì. Con la presentazione di Evalen, sì. pubblicato da Allegri nel 2017, con Davide Grasso e Vanni Santoni. Davide Grasso è anche l'autore. E anche l'autore, certo, sì. Dalle 17, un tavolo intitolato Narrativa Working Class, a partire dalla presentazione di due libri importanti, molto, molto belli pure. 108 metri, The New Working Class Hero di Prunetti. Mm-hmm. E il testo di Marta Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, con entrambi gli autori e anche la casa degli esponenti della Lega, insomma, mm-hmm. la casa editrice. Molto, molto, molto, molto, molto interessante. Vai. E sempre con Allegre si continua la presentazione delle 19. Il libro è Mutualismo e autogestione, con l'autore Cannavò e Valente, esponente, rappresentante, diciamo, di Mondeggi, Fattoria senza padroni. Cena, bravo. E dalle 21 ci un saranno un trittico di spettacoli, bravo. Letture, che più ne ha chi ne metta, che sono, diciamo, in ordine: Fiori in verso di Lello Voce, In parola, Letture dai campi profughi in Libano di Ivan Tressoldi. Sì. Un set per sette video di Frasca, non so il nome, e performance di Fumofonico e musiche di Nao. Ottimo. Ultimo giorno. Vai, prego. Ultimo giorno è la domenica 20 maggio, dalle ore 16, la presentazione con Gabriele Merlini, l'editore Quatraro, e altri tra autori e autrici della raccolta Odi, pubblicata da FQN l'anno scorso, 2017. Mm-hmm. Poi si passa ad una bella chiacchierata, dei dialoghi sul Poetry Slam, con Lello Voce, Lo Russo e Cunialla. Sì. A partire dalla presentazione di Santa Bronx, pubblicato da Squilibri nel 2017, di Dubito, con il musicista Tantulli e Cerruto. Buono. Non diciamo i nomi perché sono tutti puntati, sì. Iniziali puntate, quindi sì, magari alcuni li sappiamo, alcuni non li sappiamo, quindi non ci avventuriamo. Dalle 18.30 alle 20 un tavolo sulla la poesia di strada, il tema è la poesia di strada, quindi saranno presenti Ivan Tressoldi, Movimento per l'Emancipazione della Poesia, Stemarta, Mister Chaos e altri, a partecipare a questo tavolo sulla poesia di strada. E a seguire a questo tavolo sulla poesia di strada, cioè, dopo aver mangiato ovviamente, c'è la finale regionale del campionato di Poetry Slam Lips, Lega Italiana Poetry Slam, a cura di Fumofonico. Molto bene, questo è il programma praticamente di tutti e quattro i giorni. Sì, magari se ci saranno degli aggiornamenti, dei cambiamenti, lo diremo nelle prossime puntate. Ci saranno tutti e quattro i giorni diverse cose permanenti. Intanto la prima cosa che dobbiamo dire è che ci sarà Radio Wombat, che tendenzialmente starà in diretta, cioè, tutto il giorno, tutti e quattro i giorni. Dovrebbe essere così. E comunque tutto verrà poi rimesso in podcast, poi avremo tempo per parlarne e lo faremo sicuramente anche nelle prossime settimane. Mm-hmm. Sì, ci saranno un sacco appunto di banchini, di librerie, distro e banchi espositivi. Sì. Le vogliamo dire un po' o no? Oppure ce la teniamo per la prossima volta. Esatto. Espositori, tanta allora, roba. Visto che è uscito, si può anche andare a vedere su Facebook tutto ciò che c'è, tutti i banchini, tutte le presentazioni, esposizioni che saranno presenti parallelamente a tutte le cose bellissime che avete elencato. Esatto. Uh-huh. Che c'è l'evento su Facebook, c'è la pagina che è Festival di Letteratura Sociale 2018, sì. Terzo Festival di Letteratura Sociale. E vi leggo due righe, che sono: tutti gli eventi sono ingresso gratuito, bar autogestito a prezzi popolari per tutti i giorni, che serve tra l'altro per finanziare il festival stesso. E la polveriera è dunque il festival contro ogni forma di discriminazione, razzismo, sessismo e fascismo qua non sono ammessi. Quindi questo era un po' l'avvertimento che dovete sempre tenere di conto, sennò, sono le regole ci sono, razzisti, sì. Sessisti e fascisti alla larga, insomma, sì. Non siete benvenuti mai, ma neanche su Radio Wombat, ma infatti mai da nessuna parte. Detto questo, hai da proporci? Sì, avevamo pensato nelle lucubrazioni pomeridiane, uh-huh. di fare una breve lettura, una breve introduzione da qui a quando inizia il festival di un libro, cioè di un libro che presenteremo settimana, e che verrà presentato al festival. Questa settimana potremo iniziare con il testo di Davide Grasso, che è Evelyn. È un testo dell'anno scorso, del 2017. La vicenda editoriale è abbastanza preoccupante e divertente. Nel senso che racconta. È uscito fine 2016, mi pare, un video su YouTube di Davide Grasso, che con una keffia curda intorno alla faccia raccontava di quello che stava accadendo in Siria e principalmente a Kobane, in cui ovviamente non diceva il proprio nome, si chiamava con il proprio nome di battaglia, come tutte le persone che combattono sul fronte guerra, e raccontava questa faccenda. Un organo di stampa abbastanza importante di Torino, molto importante di Torino, e politici locali del PD l'hanno riconosciuto in quanto esponente, ex esponente, esponente tuttora, non lo so, non è importante, del centro sociale a Scatasuna e del movimento Notab. È stato riconosciuto e su tutti i giornali, su Facebook, su Twitter, è stato pubblicato il suo nome e cognome, dicendo che dal Notab alla Siria, ecco, chi sono i Notab, la Scatasuna va sgomberato. Bene, chissà cosa direbbero ora, fra l'altro. Quindi una persona che si ritrova a combattere l'ISIS sul confine appunto siriano, turco, insomma, nelle zone del Kurdistan. Si è ritrovato il nome e cognome pubblicato sui giornali italiani. Quindi, insomma, da quel momento in poi, giustamente, Davide Grasso ha deciso a quel punto di metterci faccia e penna e tutto. Ha scritto questo libro in cui ha raccontato le motivazioni per cui è partito per quell'area geografica. E cioè, le motivazioni che l'hanno spinto, che sono state principalmente il Bataclan. Lui di fronte al Bataclan si è sentito in dovere di andare a combattere alla fonte ciò che era l'ISIS. E poi da vicende personali. È tornato e presentando il libro, quello che succederà anche in Polveriera, ma era stato già presentato a Firenze in diversi posti, anche in giro per l'Italia molto spesso, è servito e serve per tenere alta l'attenzione su quello che succede in Siria, di cui abbiamo parlato anche noi e che è sempre molto attuale. Ora io prenderò un microfono, non funziona molto bene, che mi sono scassato anche il cazzo. Facciamo che gli passerò il mio, quindi aspettate un attimo su Radio Wombat. Grazie dolcezze, dicevo. No, leggevo un paio di pagine di questo libro in cui all'inizio, così non c'è nemmeno lo spoiler, dire. E in cui Grasso racconta le motivazioni per cui si è sentito in dovere di andare fino laggiù. Ero partito a inizio febbraio per la Palestina. Avevo attraversato la Cisgiordania in autobus, la Giordania in taxi fino ad Amman. Io poi ero giunto in Iraq, a Erbil, e da lì avevo attraversato il confine con la Siria a inizio marzo. Era metà aprile quando avevo comunicato a Kamshilo la mia intenzione di entrare negli YPG. Ripensai anche all'origine più remota e meno immediata della mia scelta, che affondava le sue radici nelle settimane di poco precedenti quel massacro, che è il Bataclan. Ero stato a Utrecht, in Olanda, in compagnia di una persona inestimabile, una ragazza araba nel Nord Africa. Aveva partecipato nel 2011 alla primavera del suo paese, ancora teenager, ma se n'era distaccata, delusa quando i regimi avevano schiacciato le proteste o ingannato la popolazione e gli islamisti avevano iniziato a prendere il sopravvento. Colta, intelligente e appassionata, mi aveva fatto comprendere quanto il mondo del Nord Africa e quello del Medio Oriente fossero complessi e quanto fosse complesso l'Islam, così come la vita e le aspirazioni concrete sull'altra sponda del Mediterraneo di milioni di persone come noi. Un giorno aveva sollevato gli occhi dal suo computer e mi aveva chiesto: «Hai visto cosa sta accadendo a Cisre?» Con la pronuncia di quel nome, le tessere del domino di cui era composta la mia esistenza avevano iniziato a cadere una sull'altra e non lo sapevo. Cisre. Digitai la parola sul PC. Scoprì che si trattava di una cittadina nell'estremo sud-est della Turchia, al confine con la Siria e l'Iraq. Le forze speciali del governo turco avevano imposto un coprifuoco sulla sua popolazione di lingua curda, causando decine di morti in pochi giorni. Restai colpito dal fatto che coloro che stavano resistendo per strada non apparivano ispirati da visioni religiose, circostanza a cui purtroppo la storia recente mi aveva abituato, ma sembravano persone simili a me, interessate a costruire una città pluralista, femminista ed egualitaria. Proprio per questo quelle persone venivano uccise dal partito islamista al potere in Turchia, l'HP, del presidente Erdogan. La cosa mi colpì profondamente. Un anno prima, nel 2014, ero stato a Istanbul per una breve vacanza. Lì avevo rivisto la ragazza del Nord Africa. Ci eravamo incontrati in piazza Taksim. Avevamo bevuto un tè sotto il cielo notturno della sublime porta. Oggi ingresso, dall'Europa, di ciò che di meno sublime si possa immaginare. La guerra e la morte che inondano una parte del mondo contemporaneo. A Istanbul avevamo incontrato Jebrail. Era un amico turco che aveva fatto l'Erasmus a Bologna e che avevo conosciuto in Valsusa, nei pressi di Torino, 2 anni prima. Mentre eravamo a casa sua, una sera in cui mi era appisolato sul divano, a svegliarmi erano state le sue lacrime. Aveva appreso su Facebook che una sua amica, Kader, era stata uccisa da un colpo di fucile alla testa. Mancava un anno all'assassinio, con modalità analoghe, di Valeria, di cui io allora non potevo sospettare neanche l'esistenza. Anche Kader, come Valeria, era una dottoranda in scienze sociali. Valeria lo era a Parigi, Kader aveva studiato all'Università di Marmara, a Istanbul, e là aveva conosciuto Jebrail. Kader non era stata uccisa dall'ISIS, come sarebbe accaduto a Valeria. Era stata uccisa perché voleva contribuire alla lotta contro l'ISIS. Era stata colpita dalla polizia di frontiera turca mentre tentava di attraversare il confine per raggiungere Kobane, che in quel momento resisteva contro l'invasione del califfato. Mi fermo qui, e questa era una parte della motivazione, cioè un'esperienza personale che ha vissuto l'autore, per cui ha deciso poi di partire. Insieme alla strage del Bataclan e altre mille motivazioni che poi trovate nel libro. Basta. Tu non hai più il microfono a questo punto. Noi cosa dobbiamo mandare? Una rubrica forse a questo punto, vero? Beh, forse è il momento di sentire qualcosa che non sentiamo da qualche puntata. Cioè distruggerci e avere ogora a pezzi. Ah. Ugora pezze, ma che già fa? Ah, buongiorno amiconi di Fuoco alle Polveri, finalmente ci risentiamo dopo tanto tempo poi con queste belle note. Allora, oggi ho deciso di fare una puntata tutta su belle voci di grandi donne, anche se in realtà principalmente parleremo di una soltanto, che non è quella che stiamo per ascoltare, che è veramente una grande donna, ovvero sia... Anna Maria Cecilia Sofia Kalos, che poi in realtà è un'abbreviazione Kalos perché il vero cognome è Kalogeropoulos, cioè begli uomini. Stiamo parlando di Maria Callas, grandissima cantante, voce incredibile, nata a New York, morta a Parigi. Diciamo, per chi non la conoscesse, dico proprio niente su di lei, semplicemente che fu incredibilmente apprezzata sia per l'estensione incredibile, dicevamo, della sua voce, sia perché rilanciò un po' quella tecnica del bel canto ottocentesco, interpretando tanto Bellini, Donizetti, insomma rivalutando tutta una parte di repertorio operistico italiano. La sentiamo qui in un concerto del 58 all'Opéra di Parigi, dove interpreta questo pezzo meraviglioso, che è una voce poco fa, un'aria del primo atto del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, un'opera del 1816, un'opera buffa in 2 atti, molto divertente, ragazzi, se non l'avete mai sentita fatelo mentre fate footing, che è quella cosa che si fa con i piedi che non so ben descrivere. Yeah. Quella che stiamo sentendo è quest'aria che appunto canta la protagonista femminile dell'operetta, dell'opera buffa del Barbiere di Siviglia, che è Rosina. Per spiegare molto velocemente cosa succede, senza approfondirci sulla trama dell'opera, il conte d'Almaviva, un innamorato di lei, insomma, le fa una, le ha appena fatto una serenata sotto la finestra, consigliato dal Barbiere di Siviglia, che è un po' il servo della situazione, l'aiutante, quello che intreccia i cuori, passa i biglietti. Lei, che vive in una casa con un tutore vecchio e scorbutico, ha sentito da dentro la camera questa bellissima serenata, e una volta che il suo innamorato si è allontanato, lei esce fuori a dire quanto è incredibilmente, squasillamente colpita da questo gesto amoroso. Ecco, però forse il motivo per cui mi piace di più quest'opera, più che il canto incredibile che stiamo ascoltando qui sotto, è il testo, quello che dice. Lei si racconta e dice: sì, io sono docile, mi faccio cedere, sono, mi faccio reggere, scusatemi, so assecondare chi mi è intorno, ma se mi toccano dov'è il mio debole, sarò una vipera, e di 100 trappole prima di cedere farò giocare, cioè darò da giocare con 100 trappole prima di arrendermi se qualcuno vuole toccarmi nel mio punto debole. Qual è il suo punto debole? Questa è una buona domanda, sì. E va bene, mentre la calla scanta, noi saltiamo di palo in frasca, e di palo in frasca neanche tanto, perché mentre lei cantava, insomma, all'Opera di Parigi, stava nascendo una stella in Sicilia, una stella dal nome Giuseppa Romeo, che non è proprio il nome di una stella, infatti cambierà molti nomi nella sua carriera, purtroppo spentasi un po' di tempo fa, è morta nel 2004, se non mi sbaglio. Giuseppa Romeo, passata alla storia come Giuni Russo, che aveva una voce incredibile, sarebbe dovuta necessariamente diventare famosa perché aveva un'estensione vocale incredibile, una facilità di cambio di registro spaventosa, riusciva a coprire 5 ottave di estensione, cioè arrivava fino al do diesis. È diventata famosa perché in molti pezzi diversi, 3-4 della sua, del suo repertorio, imita il verso del gabbiano in una maniera molto particolare. Il pezzo che sentiamo adesso riusa proprio una voce poco fa che abbiamo sentito, e si chiama infatti Sarò una vipera. Sentiamocelo, un pezzo del 1981. Sarò una vipera. Oh, oh, oh, oh, sarò. Leggi mai i giornali per rilassarsi un po'. In assoluto la mia nuova canzone preferita. Grazie, Nick. Grazie. Insomma, che pezzone, eh? Cioè, incredibile. Ma poi lei ha una voce veramente assurda. Tra l'altro, non a caso, figlia d'arte, figlia di un soprano naturale. Niente, il pezzo che sentiamo qui sotto è il pezzo con cui è esordito a Sanremo nel 68, esordisce tra l'altro come Giusy Romeo con una canzone che si chiama appunto No Amore No, No Amore di Vito Pallavicini. Nel 74, un po' di tempo dopo, sarà un po' difficile la scalata al successo di Giusy, di Giuseppa, anzi, chiamiamo le cose col loro nome. Nel 74 incide il suo primo CD con una etichetta discografica che era la divisione italiana di un'etichetta crucca che si chiama BASF, B-A-S-F. La fanno per avere guadagno sicuro, diciamo, decidono di puntarla, di lanciarla sul mercato internazionale. Infatti le danno un altro nome, non più Giusy Romeo ma Giunie Russo con la J. Poi il suo nome verrà italianizzato dopo un po', perché capiscono che vende solo in Italia, quindi... Come Giuni Russo fa il suo primo album, che si chiama Love is a Woman, un album di pezzi tutti quanti in inglese, e niente, dal discreto successo. Da lì stamperà anche una serie di altri singoli importanti. Nel 75 due grandi singoli, sempre con la stessa etichetta discografica, ovvero Everything is Gonna Be Alright, la cover di Pippi Arnold, e Intrappola. Intrappola è un pezzo scritto da il grande Cristiano Malgioglio, che collaborerà con lei per tantissimo tempo. Scriveranno insieme in un trio che farà un po' la storia di questo tipo di canzoni un po' anni 70, un po' strane, ovvero sia Giuni Russo, Maria Antonietta Sisini, che diventerà sua coautrice per tanto tempo, e il grande Cristianone. Quando nel cuore c'è un segno, scrivono appunto diversi pezzi per Rita Pavone, per la Zanicchi. Sentiamo qui sotto uno dei pezzi più belli, che è Ho fatto l'amore con me, che loro scrivono per Amanda Lear. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascavo con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, e mia opinione si sa di fare ciò che me va. Domani sera cerco te, giorni feriali voglio me. Non a caso questa sarà l'ultima collaborazione tra Malgioglio e Giuni Russo. Da qui però, ragazzi, mi interrompo e non vado avanti sulla storia di Giuni, di cui parliamo la prossima volta, con la svolta della sua vita, che è stato l'incontro con Battiato e tutta un'altra serie di cose molto belle. Voglio farvi un indovinello. Parliamo di Cristiano Malgioglio. Sappiamo che è un siciliano, sappiamo che nasce come un paroliere. Tra l'altro, bomba, lui è andato a studiare, siciliano, è andato a studiare a Genova ed è stato lanciato nel mercato grazie a Fabrizio De André. Tra l'altro, lo stesso Cristiano dice di essersi poi sdebitato presentando a Fabrizio De André Dori Ghezzi, che era un gran pezzo di ragazza al tempo. E poi, si sa, Insomma, Malgioglio ha scritto pezzi incredibili, due sicuramente sono i suoi più importanti, entrambi scritti per Mina. Il primo ve lo dico io ed è L'importante è finire, del 75, il secondo è del 1978, lo canta sempre Mina. Ditemi qual è, avete, non lo so, 15 secondi, 10. No, non ce la fa, vai, ce la fa, Mina. Aspetta, fuori cerca su Google, fuori cerca su Google. Vai, su Google. Vai, veloce. No, aspetta, aspetta, Mina. Siamo circa 10, mi 3, sa. Mina. 75, 2, vaffanculo. Dai. Con lei. L'avevi trovato? No. Ancora, ancora, ancora. E vince, non lo so chi ha detto di voi. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì, ma se dormo sul tuo petto e amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore. Strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia, ancora ti abbracciarmi. E va bene, qui ci salutiamo, amiconi di Fuoco alle Polveri, e viva viva e viva. Speriamo, cioè, ci risentiamo la prossima settimana e continueremo a parlare di Giunone, di Giunona, anzi, e niente, su, ditelo voi. E viva Radio Wombat. Ciao, ciao. E viva Radio Wombat. Grazie. Sono un aeroplano, sono una sete libre. Non sono un dirigibile, sono un kebab al fulmine. Non sono un parafulmine. Tiengue, ugora pezze, ma che già fa? Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Sì, sì. E insomma, viva Radio Wombat e viva Fuoco alle Polveri. Grazie mille, cuore a pezzi, Nico, sempre bello. Sì. Bellissima puntata. Bravo, bravo, bravo. Eccezionale, bravo. Veramente. Ci manchi, caro. Ci manchi. Sì. Bene. E adesso torniamo un po' a... torniamo un po' a noi, alla nostra, torniamo alla meravigliosa nostra city, alla nostra bella città. Che cosa è successo alla nostra bella città? C'è il nostro... niente di particolare. Niente di particolare, però, però il nostro primo cittadino, dopo le sue sparate di poco tempo fa, la prima appunto, no, quando il commento, il commento sulle due americane stuprate, sì, no? Che è colpa loro, cioè cosa, certo, pensano? Che qui è Disney, Disneyland, eh? Che vengono qua a fare le zozzone, è colpa loro, non dei carabinieri. Cioè, poveri carabinieri, hanno fatto, solo i maschi. Hanno detto no, la dichiarazione dei carabinieri invece. Sì, i carabinieri si sono difesi dicendo abbiamo fatto i maschietti. Abbiamo grandi, fatto i maschietti. Vabbè, abbiamo già commentato. Vabbè, insomma, torniamo a Nardella. E poi vabbè, dopo aver a caldo subito con l'omicidio successo qualche settimana, sì, fa di Dien, in cui ha paragonato a caldo subito lo stesso giorno la rottura dei vasi con un omicidio. Infatti, insomma, hashtag Je suis fiorirà. Esatto. Esatto. Ce n'è un'altra nuova, cioè i microfoni di Controradio, mentre promuoveva la sua idea di reintrodurre l'ora di educazione civica dentro le scuole, che sì, ci può, che fin qui tutto bene, cioè ci può stare, sì, fare rimettere educazione civica, sì, va bene. Sì, anche lì bisognerebbe vedere un attimo, sì, esatto, si intende. Comunque civica, lui ha detto esattamente queste parole. Dai. Troppe volte nelle nostre scuole arrivano giovani immigrati stranieri che talvolta non conoscono bene l'italiano e non conoscono le regole minimali di convivenza. Certo. Cioè mette in relazione diretta l'inciviltà con la provenienza geografica. Non è, certo, che, cioè gli incivili non è che sono dovunque, sono prettamente derivate dalla provenienza geografica. A volte il tema della sicurezza si sovrappone alla questione immigrazione. Non è sempre vero. Lo è quando i responsabili degli atti illeciti sono immigrati irregolari che non rispettano le regole del nostro paese. Cioè, lui fa questa dichiarazione fingendo di essere equilibrato, cioè mettendo il a volte, sì, non è sempre vero. Schiaccia il problema della sicurezza sulla questione dell'immigrazione. Esatto. Sugli immigrati. Di solito queste cose qui si chiama tipo razzismo. Sì, pare dice di sì. Salvini. Dice che... vabbè. E fra l'altro, appunto, viene questa dichiarazione viene fuori da... dopo che Nardella si è detto qualche giorno fa, si è detto d'accordo con Minniti, con cui è stato molto, insomma, a parlottare nelle loro stanzette. In cui diceva appunto Nardella che appoggia la creazione di un centro di permanenza temporanea in Toscana. Ah, ah. C'è un centro di detenzione, sa benissimo, insomma, cosa succede, anche grazie a diversi giornalisti che hanno fatto inchiesta in cui, certo, vengono stupri, e, insomma, che è successo di tutto, sfruttamento, questi... di tutto. È successo di tutto. È molto divertente, questo è arrivato alla nostra attenzione tramite un articolo di InfoOut, che mi invito a leggere. E, tutto questo in un in clima in cui Nardella rivendica il fatto, si inalbera un po' quando gli viene detto, no, che è di destra, sì, non gli torna tanto, perché lui è del PD, no, forza, ma forza di sinistra, sì, d'avanguardia quasi, mi verrebbe da dire. E lui recrimina, dice il fatto, vabbè, voi mi dite sono destra, ma è grazie a me, sia alle scorse elezioni, grazie al Nardellone, certo, a Firenze non hanno vinto i partiti xenofobi, sono molto in minoranza, no, i partiti di estrema destra, perché lui, ma infatti noi... essendo un uomo di sinistra, appoggia e le vendicazioni di destra, ma infatti, ma... gli sgomberi, i centri appunto di accoglienza temporanei, tutte queste cose qua. Quindi come se dovessimo ringraziare per esempio Macron per non aver fatto vincere la Le Pen, sì, stiamo vedendo in questi giorni questo meccanismo qua, che era fra l'altro la cosa, almeno a me personalmente, mi fece paura di quando vinse Trump, no? Certo. Che vince un personaggio del genere, tutti gli altri sono leggermente meno a destra, diciamo, appariranno, infatti appaiono come degli specie di progressisti non razzisti. Molto bene. Certo, vabbè, poi non chiaramente l'America non... Sì, no, era un esempio. Certo, il panorama politico americano non va paragonato, cioè la sinistra americana non è certo... Certo, ovviamente, però è un processo, insomma... Come appunto diceva anche Macron e la Pen, dalle sì, Pen, sì. No, cioè... diceva, hanno vinto su quel tipo di certo. campagna elettorale, perché lì poi c'è il ballottaggio, quindi questo tipo di retorica molto funzionale, poi bene. O quello o quell'altro, e abbiamo visto, ne avete parlato anche voi settimana scorsa, ma in generale stiamo vedendo molto cosa succede in Francia e cosa ha fatto anche la Francia, ha partecipato anche ai bombardamenti in Siria, quindi appunto, subito Inghilterra e Francia certo, visto che erano, ricordiamo, erano i paesi che si erano spartiti con un accordo segreto tutti quei territori lì, per usarseli esatto. come gli pareva. Esatto. E casualmente, appena Trump lancia un attacco, Francia e Inghilterra, subito. E noi magari non ci soffermiamo troppo su questi momenti, perché ne hanno già parlato anche durante la rassegna stampa di oggi, lunedì. Tutti i lunedì c'è una rassegna stampa su Radio Wombat, all'ora di pranzo. E la potete trovare tramite i podcast, quindi magari un approfondimento migliore di quello che potremmo fare noi adesso. Sì. Un altro articolo che mi sento di consigliare, di cui magari non abbiamo troppo tempo per parlare, visto che abbiamo altre due magiche rubriche. Bellissimo. È un articolo che è uscito sul sito del Laboratorio per un'altra città. Vero. L'articolo si intitola così magari lo trovate, a Firenze, War Games in via De Neri. E parla del comitato di Via De Neri, capitanato tra l'altro da un consigliere, una consigliera di Forza Italia del quartiere 1, in cui è stato assoldato un comando di guardie volontarie contro i bivacchi di quella città, di quella strada Via De Neri, che è considerata un po' come appunto il mangiatoio dei turisti. Perché sono i paninari. Perché ci sono i paninari locali. Famosi. E nulla, quindi una nuova ronda di sicurezza nelle strade di Firenze. È interessante l'articolo perché c'è un link, per esempio, al pacchetto sicurezza del 2009, in cui viene regolamentata, cioè è stata regolamentata l'istituzione delle ronde dei cittadini. Ora, tra l'altro, questa qui di Via De Neri non corrisponde proprio bene alle regole, sono un po' fuori dalle regole, però insomma è divertente come articolo, anche e soprattutto per i legami che ci sono tra le persone che fanno parte di questo comitato e di questa forza di sicurezza, diciamo, volontaria cittadina, con questi war games, quindi sono dei campi fondamentalmente di gioco alla guerra, simulato. Dove però un partecipante è andato a fare il contractor in Ucraina, forza a fianco delle... Che erano stati, questi soggetti qui che sono dietro a queste ronde. Uno di loro è uno di questi che gestiva questo campo di allenamento soft air, in cui venivano fatti allenamenti paramilitari. Contractor per andarsene in Tunisia, o in Libia, e dove più ce n'era bisogno, tra virgolette. Niente di tremendamente scandaloso, ma vediamo un po' a chi piace giocare a fare la guerra, occhio a chi gli piace fare la guerra. Tra l'altro c'è stata un'altra ronda negli scorsi giorni, un'altra ronda di Scandicci, di Casa Pound. Tra l'altro quel tipo di ronde lì, penso che forse siano tutti i limiti del decreto del 2009 siano stati superati dal decreto Minniti. Sì, viene proprio figlio di quella parte lì, insomma. Perché adesso anche le associazioni che provengono anche da partiti o da movimenti politici possono sedersi in ronde in più di 3 persone, possono girare per le strade e rompere il cazzo. Buono, no? Bello. Bene, siamo tutti molto più sicuri. C'è stata una presa di posizione però del sindaco di Scandicci, che ha detto che invece è stata un'azione assolutamente illecita e sbagliata. Quindi se Dio vuole... Illecita magari nella proprio singolarmente come azione, ma è un modus operandi che sta venendo legiferato e quindi legittimato di fronte a È un po' si ritorna al discorso di prima, nel senso un po' come argine alle richieste più oltranziste della destra, vengono autorizzate azioni di piccoli gruppi che vorrebbero tanto fare poliziotti, quanto gli piacerebbe essere poliziotti. Piacerebbe essere militari, poliziotti, e poter comandare un po' a giro. Esatto, fare un po' di violenze. Cioè, invece di aprire la città, nel senso di fare in modo che la popolazione viva le proprie strade, le proprie piazze, che è il modo più... L'unico modo per rendere sicuro un posto, renderlo vissuto da chi ci abita. Fai queste scelte qua, che poi si ritorceranno anche contro tutti, perché mandale, vai, 3 persone, 4 persone, 5 persone, fai le ronde... Vedremo cosa succederà. E comunque, queste persone che non vedono l'ora in realtà di fare violenza, vista la loro retorica che da decenni ci pervate, occhio. Quindi, quando giriamo per la strada, occhi aperti, perché ci sono anche i fascisti che con le fettorine. Autorizzati. Detto questo, rubrichette. Andiamo. Quello è bello. Sigla. Oh yeah. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Fuoco alle Polveri e di Radio Wombat. Avete capito chi sono? Avete capito di cosa parlo? Grazie alla sigla. Grande, ciao Lapo! Ciao! No, un ciao Ricco! Tornare qua. Ciao anche al Lapo, comunque. Ciao anche al Lapo, certo. Grande Lapo. Allora, con il sottofondo di Agnese Dolce Agnese, che per l'appunto va in bicicletta, di cosa potremmo parlare se non di biciclette? Nello specifico si riparte dal Mobike, perché c'è una grandissima notizia. Eccezionale. Arrivano le nuove biciclette, quelle biciclette che erano ferme in un porto olandese per chissà quale problema. C'è chi dice che i sellini avevano un problema, c'è chi dice che i pannelli solari per la carica delle lucine non funzionassero. Comunque, fatto sta, sono arrivate, hanno avuto la grande idea di far sì che non siano solo adatte ai cinesi con la loro statura piuttosto basse, e quindi hanno scoperto che la media dell'altezza dei cittadini fiorentini è un pochino più alta, quindi hanno progettato e fabbricato delle biciclette con un sellino più alto e non solo, ma anche a marce. Vi saranno biciclette con 3 rapporti che permetteranno di essere più agili, di essere più veloci, in anche generale più resistenti, perché comunque con le marce più resistenti erano piantatissime. Le Mobike numero 1 sono piantatissime, sono dei tromboni, cioè. Vabbè, comunque arriveranno a brevissimo, anzi sono già arrivate, stanno iniziando ad essere per le strade, ma non vi sedete troppo, perché arriveranno anche quelle elettriche. Molto presto potremmo anche scalare i colli fiorentini grazie alle Mobike elettriche. Tutto questo a discapito dei nostri dati, che naturalmente così ancora di più saranno estratti e comprati da chissà quale azienda. Comunque questo sta poi alla decisione di ognuno se metterli a disposizione del commercio. Esatto. E noi possiamo solo avvertirvi, poi fate bonus. Comunque, questo è un piccolo aggiornamento sulla questione cittadina. Andiamo ad affrontare temi sempre su 2 ruote, ma ben più importanti, perché probabilmente molti di voi avranno visto che cosa è successo a Torino settimana scorsa. C'è stata una sentenza del tribunale dove è stata praticamente respinta la causa l'accusa di 6 riders, di 6 fattorini in bicicletta. Ah, sì, sì. Avevano fatto causa, una causa civile a Fudora. A Fudora. Per il licenziamento, fra virgolette, in seguito alle proteste, alle mobilitazioni del 2016. Quindi 6 di questi 6 riders e 6 fattorini erano stati, non gli era stato praticamente rinnovato l'incarico, anche se proprio di incarico non si può parlare, perché di fatto la sentenza dice, afferma che i lavoratori di Foodora e i lavoratori dei delivery non sono proprio dei lavori, non sono lavoratori subordinati, bensì collaboratori autonomi. È un po' una sentenza che va in controcorrente con quello che sta un po' succedendo in Europa, perché in altre sedi era invece la giustizia era andata in una direzione opposta, dando ragione ai lavoratori. Questo invece purtroppo a Firenze, purtroppo in Italia, non è successo. Avevo visto abbastanza agghiacciante il primo articolo di Repubblica su questa cosa, sì, che poneva l'accento più sull'ipotetica cazzonaggine dei fattorini rispetto alle ingiustizie, sì, che è vero, infatti diceva, povero Foodora, cioè, povero Foodora, nell'ultimo mese 70 volte non si sono presentati i rider, cioè, sì, sì. Questo è Repubblica, che diceva appunto che quando piove quando le, insomma, le condizioni atmosferiche sono più avverse, i lavoratori fanno finta di non aver preso l'impegno con l'azienda e quindi non si presentano al lavoro, non confermano i turni e via discorrendo. Ma ora di questo parleremo un attimino in modo più approfondito, anche del comportamento dei media, perché proprio ieri, che era domenica 15 aprile, c'è stata la prima vera grande assemblea dei riders nazionale a Bologna. Dico la prima vera perché ve n'era stata un'altra a Torino, ma la Farlocca. No, era vera, ma no, la partecipazione è stata veramente okay, scarsa. Quindi ieri si può considerare come la prima pietra posata realmente da tutti i riders nazionali, anche se loro non vorrebbero essere chiamati riders, è un termine che viene utilizzato dalle aziende. E come vorrebbero essere loro? Sono stati chiamati in tanti modi, portapizza, forse fattorino, comunque lavoratori tendenzialmente. Quindi ieri presso il nuovo LABA a Bologna, ricorderete il centro sociale sgomberato lo scorso autunno, si è insediato in una struttura comunale del comune, data attraverso un bando per un anno, poi rinnovabile a due. Dunque si sono ritrovati lì e c'erano veramente tante persone, c'ero anch'io almeno in parte, insieme circa un centinaio di persone. Erano molto molto contenti gli organizzatori, e vi erano persone, sia riders naturalmente da Bologna, da Torino, da Milano, ma vi erano anche rappresentanti dei sindacati, soprattutto CGL, CISL e UIL. Vi erano dei rappresentanti addirittura dall'Europa, in particolare dal Belgio, Collectif de Courriers, e Jérôme Pinet, che è il portavoce della CLAP, che è un collettivo invece parigino. Oltre a questo vi erano anche Federico Martelloni, che è un consigliere di una lista civica bolognese, e anche dei Scagnozzi, dell'assessore lombardo. Tutto questo perché a Bologna, diciamo, sta nascendo un percorso dal basso, ma che si interfaccia anche con l'amministrazione, che poi ha portato anche a dei risultati che vedremo in seguito. Comunque l'assemblea è durata tutto il giorno, è iniziata la mattina circa verso le 11:30, è durata fino alle 6, poi dopo c'è stato anche un tempo per conoscersi, chiacchierare e bivaccare un po'. Si è sviluppata principalmente intorno a tre punti: le pratiche di organizzazione tra riders, i diritti e le rivendicazioni verso le piattaforme, e infine l'organizzazione del 1° maggio, festa dei lavoratori. Riguardo al primo punto, quindi le pratiche di organizzazione dei riders, sono stati tirati fuori dei punti fondamentali che fondamentalmente girano intorno al mutualismo e alla sensibilizzazione degli utenti. Sensibilizzazione degli utenti fatta attraverso, naturalmente, volantinaggio, attraverso comunicati informatici. Il mutualismo invece è tra i fattorini, che sono completamente disgregati, un po' a causa dell'eterogeneità dei lavoratori, un po' anche a causa di come di fatto lavorano, cioè degli strumenti attraverso, certo, il quale lavorano, per come è impostato il tutto, per come è impostato, esattamente, e per come è impostato il tutto. un punto fondamentale della loro situazione è la mancanza di spazi di aggregazione. Noi lo diciamo sempre, gli spazi sono fondamentali per avviare percorsi dal basso, percorsi politici, e quindi nel loro caso, che sono lavoratori che di fatto come luogo di lavoro hanno le strade, le città, quindi immensi spazi, manca un vero spazio di aggregazione. Quindi che cosa è successo a Bologna? Questo è stato un po' il primo passo dei fattorini auto-organizzatisi sotto il nome di Riders Union Bologna. Di fatto hanno aperto uno spazio grazie alle celle officine popolari, e oltre che uno spazio di ritrovo sono state organizzate intanto un servizio di bici sostitutive in caso di rotture, di forature di quant'altro. Sono stati organizzati anche dei corsi di riparazione semplici, e poi gli spazi naturalmente servono anche a confrontarsi con i dipendenti, con i collaboratori di altre piattaforme. Tutto questo per condividere esperienze, idee e progetti. E organizzarsi, direi. E organizzarsi. Infatti, in seguito a tutto questo, c'è stato il secondo sciopero a Bologna del 27 febbraio. Il primo era stato il 13 novembre. Comunque, il 27 febbraio scorso c'è stato lo sciopero, che poi ha portato alla creazione di una carta dei diritti dei lavoratori in bicicletta. Questa è stata creata, ancora non è stata diffusa, ma è stata creata in collaborazione con l'amministrazione bolognese. Cosa che diciamo è stata un po' la scintilla, in quanto anche a Milano, proprio ieri sera, è arrivata la notizia che anche a Milano l'amministrazione si sta cercando di arrivare appunto a contrattare una carta dei diritti. Tutto questo è quello che succede un po' soprattutto a Bologna, che è la città più organizzata, ma anche un po' anche in altre parti d'Italia. In Belgio sono addirittura più avanti, perché loro hanno creato una cooperativa con un'applicazione gratuita che si può utilizzare, scaricabile, e questa cooperativa sta provando a fare concorrenza alle grandi multinazionali. Okay. del delivery, con naturalmente condizioni più umane per chi di fatto tutti i giorni rischia la vita. Quindi, riguardo al secondo punto, i diritti e le rivendicazioni verso le piattaforme, intanto bisogna segnalare alcune cose. Io vi racconto un po' quello che è venuto fuori dall'assemblea. Intanto tutti erano concordi sul fatto che il diritto del lavoro è in un enorme ritardo rispetto a questi nuovi metodi di assunzione e di retribuzione. E sono tutti d'accordo anche che la bicicletta ha un po' un ruolo marginale in questo, perché il vero strumento di lavoro dei riders è lo smartphone, e anche sono concordi nel pensare che questo strumento, che per loro attualmente è un gioco, debba diventare un'arma da utilizzare contro le multinazionali. I problemi principali che hanno rilevato sono intanto la privacy. Perché? La privacy perché intanto per gli utenti, perché naturalmente tutti i dati di acquisto vengono poi elaborati e utilizzati per capire bla bla bla, tutta la faccenda della gig economy, che avremo modo di approfondire anche in Fuoco alle Polveri a inizio del mese prossimo. Bravo, giusto. Però è anche un problema per i lavoratori, perché le aziende sostengono che le applicazioni che utilizzano i lavoratori, cioè i lavoratori lavorano esclusivamente attraverso un'applicazione scaricabile da internet, che quindi accede a tutti i dati del tuo smartphone. Le aziende dicono sì, vabbè, però noi lavoratori prendiamo solamente la geolocalizzazione, utilizziamo solo quella. Di fatto questa cosa non è vera, quindi in primis la privacy. Poi naturalmente loro cosa rivendicano? Un'assicurazione che attualmente non c'è, una paga che sia dignitosa e non il lavoro a cottimo pagato veramente malamente come adesso. Richiedono a gran voce un monte orario garantito, perché attualmente questa cosa non esiste, nel senso che i lavoratori lavorano quanto l'app gli ordina, e questo crea una grossa competizione fra i lavoratori che si devono accaparrare il che si devono accaparrare una posizione, diciamo, di rilievo per poter lavorare di più. Di fatto le aziende assumono, diciamo, assumono fra virgolette più persone di quante realmente ne hanno di quanti realmente ne sarebbero necessarie per creare una maggior concorrenza, per in vista, diciamo, dell'allontanamento di, dei lavoratori che non fanno i bravi. E quindi tutto questo è ancora un elemento disgregante. Un altro punto molto importante è che si sono resi conto che lottare da soli contro multinazionali così, così grandi e così aggressive non è una cosa così producente, e quindi c'è la necessità di organizzarsi a livello europeo. Quindi le prossime, diciamo, loro si sono lasciati promettendosi di allargarsi e allargare ancora il loro spettro di influenza. E naturalmente la carta dei diritti, la carta dei diritti che loro vorrebbero, dunque è stata siglata a Bologna, la stanno esaminando le aziende ancora prima di essere resa pubblica, però in seguito al processo di Torino, diciamo che loro stanno puntando a un arricchimento di questa collaborazione più che a un a dichiararsi dei lavoratori subordinati. Questo probabilmente per, insomma, questioni, diciamo, di prospettiva. Terzo punto dell'assemblea è stato il 1° maggio. 1° maggio, festa dei lavoratori. Lavoratori, insomma, festa dalla quale in teoria loro sarebbero esclusi per come vengono visti dalle aziende, ma che loro rivendicano a gran voce. Quindi nelle varie città, principalmente Milano, Torino e Bologna, questa giornata sarà dedicata anche a loro. A Bologna io vi posso dire che hanno intenzione di organizzare una festa e non uno sciopero. Uh-huh. E con una critical mass. Oh. E infine una bella grigliata alla BAP. Dico festa e non sciopero perché questo anche a detta dei compagni francesi e belgi hanno un po' visto che il lottare con il grugno in faccia non è una cosa molto producente, perché appunto per la sensibilizzazione della quale parlavamo prima hanno trovato più conveniente lottare attraverso i giochi e attraverso spazi di socializzazione, proprio per riuscire ad avvicinare alla causa anche lavoratori che di fatto non sarebbero così interessati o non sarebbero così politicizzati. Quindi per questo tutte le manifestazioni che sono avvenute in Nord Europa hanno visto i riders, diciamo, anziché di avere la maschera dei cattivi come i media vogliono mostrarle, loro hanno utilizzato giochi e espedienti simpatici per farsi ascoltare. I media, torniamo ai media, perché quello che diceva Grippo non è una cosa da poco. Repubblica ha fatto degli articoli scandalosi, ma ieri ad esempio all'assemblea c'era una grandissima presenza di media, da Mediaset alla Rai ad altre grandi televisioni, e quasi imbarazzante, nel senso che i riders erano veramente in difficoltà, così mi hanno detto, perché non hanno tanto bisogno delle notizie sensazionali, non hanno tanto bisogno di finire sulle prime pagine dei giornali per far vendere i giornali, bensì hanno bisogno di far capire alle persone, soprattutto ai lavoratori, ma anche agli utenti di questi servizi, che a loro servono diritti, non serve visibilità. Certo. E quindi proprio per questo il loro modo di agire è un'azione che parte dal basso, e fra l'altro non vede neanche la partecipazione forte dei sindacati confederati. Quindi io questo è quello che vi posso dire oggi, non mi fermerò qua, ma lo farò in altra sede. perché vi riprometto che in Punta di Pedali, nella sua versione scesa, tratterà questo argomento in modo piuttosto approfondito, probabilmente e forse anche più di probabilmente, quasi sicuramente con la presenza di un rappresentante dei Riders Bologna. Questo naturalmente ve lo faremo sapere a suo tempo, e di modo da tenervi informati, ma non solo, di rendervi consapevoli e magari anche di avvicinarvi alla causa dei Riders. Non è prettamente una causa, non è una cosa che interessa solo loro, non è una cosa che interessa solo i ciclisti, ma interessa un po' tutta la popolazione, perché la gig economy è una cosa che si sta espandendo, non ha limiti, non ha paletti, interessa quindi tutti, cioè, nel senso, non interessa, è una cosa tutti. Non è una cosa settoriale. No, che interesserà sempre di più, sempre più settori, fra l'altro. Sicuramente. La economy, cioè, non è alla sua espansione massima. Ancora, sicuramente, direi. Sicuramente. Non è alla sua espansione massima e, fra l'altro, ha bisogno di essere frenata. Sì, esatto. Ha bisogno perché, come dicevi prima te, no, che la legiferazione, i diritti arrivano sempre in ritardo. Anche sì, per un motivo, ovviamente, le scritture delle leggi vengono dopo un tot di esperienza del dell'andare avanti delle esperienze, però ci vuole qualcuno che si organizzi e si organizzi soprattutto per non far sì che sia tenuto in mano a chi ha interesse che rimanga una cosa completamente fuori di testa. Vero, verissimo. Per inciso, i compagni di Torino faranno ricorso alla sentenza, perché naturalmente non sono soddisfatti, vorrei anche vedere. Quindi anche su quel fronte ci sarà da aggiornare, ci saranno svolgimenti. Bene, buono. Con questo io vi lascio, non so se la regia ha un pezzo, ma no, invece si va con la sigla. Sigla. Ho visto una bella signorina su un bike in punta di pedale. Ma diretti così. Yuri! Che c'è? Ah, così te? Cazzo! Vai che comincia! E questo non è un fake, ma è veramente l'uro dei Balcani. Attenzione! Attenzione! Attenzione, allora, eravamo a parlare di bici, di bike, e invece oggi io vi parlo di motorbike. Ah, brum brum. Of course. Allora, parli così a mezzo tra l'inglese e così, l'italiano? Così. Okay. Mi piglia. Vai, mi prende. Vai libero. Allora, parliamo di motorbike, cioè di motociclette. Oggi ci spostiamo, ma solo momentaneamente, nella madre Russia. Perché c'è una banda di motociclisti portata alla mia attenzione da Enrico Tommasini, che abbiamo fatto parlare qualche settimana fa, che presentava il Ground Tour, questa associazione, no? Questo lavoro dell'università che attraversa i Balcani e registra raccoglie, diciamo, delle... Come? Mi ricordo. Ti ricordi? Io esatto. Sì. Che raccoglie la voce e i disegni, anche molto bello, all'interno dei Balcani, di tutti quei paesi che ne fanno parte. Tra l'altro colgo l'occasione per dirvi che, sempre, visto che abbiamo parlato della categoria speciale all'interno del blog di Radio Wombat, che sarà presto disponibile, saranno, anzi al plurale, presto disponibili tutte le varie cose che hanno fatto e registrato, quindi tutti i vari interventi di coloro che hanno incontrato questo Grand Tour, e saranno disponibili sulla parte speciali, sulla tendina dei podcast all'interno di Radio Wombat, di wombat.blog.org. E vi avevamo già fatto sentire un pezzettino, però mi ha portato all'attenzione questo gruppo di motociclisti conosciuti come Nightwolf. Ebbene, questi Nightwolf, perché si collegano all'uro dei Balcani? Si collegano all'uro dei Balcani perché è una notizia abbastanza recente, non ha neanche a qualche settimana, diciamo. Questi Nightwolf hanno iniziato un tour nei Balcani per sensibilizzare i Balcani a tornare, diciamo, nelle braccia della madre Russia. Quindi stanno attraversando, anzi hanno cercato di attraversare i Balcani appunto per fare questo, per riportare tutti gli slavi. In particolar modo si sono concentrati appunto nella parte serba, nella Serbia e in quelle zone lì. Però diceva che appunto ci sono andati, all'inizio volevano andarci in moto, poi sono andati in furgone perché pioveva troppo. Ok. La natura li ha bloccati. La natura un po' li ha bloccati, e non solo, anche ci sono state appunto, per esempio la Polonia, insomma, non era tanto contenta, che infatti ha bandito la presenza del loro capo. Partendo da questa notizia, io mi sono però un po' informato, ma chi sono questi Night Wolf? Che cosa fanno? Beh, è venuto fuori una storia incredibile, mi piacerebbe raccontarvi veramente per filo e per segno, ma non ho la possibilità. Però vi do un pochino di notizie di questi meravigliosi Night Wolf. Allora, praticamente, non so se siete avvezzi al mondo del motociclismo. Sì, dei motociclisti, dei centauri, bene, nemmeno io. Però tendenzialmente la maggior parte dei centauri del mondo si rifanno agli Hells Angel, certo, americani. Che cosa vuol dire questo però? Vuol dire che è un mondo legato all'illegalità. Gli Hells Angels in America tendenzialmente spacciano, vendono armi, insomma roba grave, e tendenzialmente tutti molti dei movimenti di motociclisti si rifanno a questa regola di illegalità. E i Night Wolf si legano all'inizio a questa cultura qui, ma poi si sono un attimino diversificati. Nascono nel 1983 a Mosca. E fondamentalmente 1983, quindi ancora l'URSS era in piedi, e fondamentalmente loro volevano ascoltare l'hard rock, il metal, quello americano, esatto, era proibito, e quindi nascono per la precisione all'interno di un locale caldaia dentro un condominio e facevano questi concerti. Si definivano tendenzialmente anarchici e erano contro appunto A noi ci puzza il nazismo. Allora è difficile, allora, perché vai. Ci sono un sacco di cose veramente divertentissime, perché sono molto contraddittori come movimento. Certo. Sono russi. Non si capisce bene da che parte stanno. La verità è questa: tendenzialmente partono come una illegalità anarchica per ascoltare il metallo, fondata da Alexander Zaldostanov. Sì. Che è il leader. Il primo gruppo dei Night Wolf era composto da un musicista, un meccanico, un massaggiatore e un dentista. Erano il primo e il nucleo. Il dentista era proprio appunto Alexander, che è il fondatore, che all'inizio si faceva chiamare il dentista, ma dopo un po' dice proprio nell'intervista che secondo lui non era così tanto minaccioso. L'ha cambiato in chirurgo. Ai bambini gli fai paura. Il chirurgo. Il dentista. giustissimo. Quindi lo chiamano il chirurgo. Alla fine il chirurgo. Fondamentalmente lui è effettivamente un chirurgo dentista. Sì. E praticamente faceva after tutte le sere a ascoltare hard rock e poi andava diretto al lavoro. E per questo, e poi nel giro ha questa nome appunto di dentista, e poi diventa il chirurgo. Quindi continuano questa loro portare avanti il rock finché arriva la perestroica, e quindi c'è una certa liberalizzazione, allora sono tutti contenti. E quindi portano avanti e vanno allo scoperto, e a quel punto al grido di anticapitalismo, ma soprattutto oggi le impostazioni sono anti-NATO, anti-America, anti-Europa, anti-liberali, anti-traditori in generale, sì. E anti-omosessuali anche, quindi malissimo. Allora possiamo dirlo, bene. Però parallelamente sono incazzatissimi con i fascisti ucraini. Cioè, per loro il problema è tutto il mondo, tutto l'Occidente, che sta cercando di conquistare la Russia, secondo questi motociclisti, ma soprattutto ce l'hanno con l'Ucraina e con la parte nazista. Esattamente, nazista, e che quindi loro gridano e dicono di lottare contro il fascismo. Infatti ultimamente si sono spostati molto sullo stalinismo. Quindi hanno preso quelle posizioni lì. Di palo in frasca, proprio. Di palo in frasca, ragazzi. Un gran casino, sembra. Un gran casino. Bene. Sono molto amici di Putin. Giustamente. Che tra l'altro ha dato un'onorificenza al nostro Alexander. Al dentista? Sì. Un'onorificenza educazione patriottica della gioventù. Perché praticamente loro hanno costruito questo, questo meraviglioso mega posto, non so come definirlo, fuori da Mosca. Chiamalo mega posto. Che praticamente, se si vai a vedere le foto, c'è proprio, è lo stile Mad Max. È tutto costruito in stile Mad Max. Post-apocalittico. Esattamente. Quindi è alla sorta di parco giochi dove tendenzialmente ci sono tipo aerei, carri armati russi. Quindi c'è proprio tutto un perché il loro immaginario, il loro massimo immaginario a cui ora è, in cui è anche ispirata questa marcia nei Balcani, è ripercorrere le gesta dell'Armata Rossa. Ah. Ok. Che missione fanno? E fanno una missione incredibile. E poi all'interno, quindi, c'è tutti questi giochi e anche delle rappresentazioni. Ci sono rappresentazioni continue, gigantesche, dice che non vadano a spese per gli effetti speciali per i bambini. Infatti hanno fatto, allora dove me lo sono segnato, hanno fatto praticamente l'ultimo spettacolo, rappresentava questa questa principessa, ecco qua, praticamente per i bambini c'era la Statua della Libertà in questa rappresentazione che rapiva la principessa delle nevi. Sì. Ok, e poi quindi arrivavano poi questi lupi, i wolf, sono loro che liberavano. Autocelebrazione a manetta. Abbattevano la Statua della Libertà. Assolutamente, con le moto, con tutte le bandiere. Bandiere ovunque, sempre e comunque. Bandiere di cosa? Bandiere della Russia, principalmente, sì. Però anche Unione Sovietica. Sì, sì, sì, assolutamente. Allora ce l'hanno una bandiera? Loro hanno tutta una loro simbologia. Infatti si rifanno praticamente a un monaco. Perché loro in tutto ciò sono anche molto ferventi religiosi ortodossi. Non l'aspettavo. Non avevamo dubbi. Chiaramente. E si rifanno a questo monaco russo, Alexander Perezvet, che praticamente sfidò a duello un mongolo. Uno dell'armata di Gengis Khan, insomma, per intenderci, non era Gengis Khan, ma insomma era la Mongolia. E dice vinse a mani nude. Infatti è una delle icone principali. Infatti il quadro, diciamo, che lo rappresenta questo monaco russo in sella a un cavallo che la quale ombra però ha la forma di un lupo. Allora da lì Night Wolf, insomma, sono presi bene. Hanno in realtà poi un vasto impero economico legato alla... Addirittura? Sì, alla... come si dice? Meccanici di moto. Ah, ok. Dell'Harley Davidson. Pensavo, ma anche in ambito dentistico. No, bestiario. Tutta questa... si sono molto arricchiti in questo. Infatti sono usciti dall'illegalità e si sono allontanati dagli Avengers. Questo non è molto piaciuto, anche perché sembrerebbe che l'ultima carta costituente redatta dallo stesso Alexander abbia accentrato molti poteri su di lui e quindi molta gente è andata via molto risentita di questa cosa. Niente, quindi, cos'altro dirvi? Dovrei raccontarvi un sacco di cose. L'ultima cosa che gli ha promesso Putin stesso è che manderanno in orbita con il prossimo razzo una bandiera dei Nightwolf. Ah. Sì, verrà sparata in orbita. Okay. Questa è la notizia eccezionale. E niente, fondamentalmente poi chiaramente siamo in ritardo, qui siamo, racchiudiamo tutto, qui non è una retorica, era per raccontare questo movimento di motociclisti che sta attraversando i Balcani cercando di riportare a casa le pecorelle. Sì, assolutamente, ma è una cosa slegata, c'è questa amicizia con Putin, poi chiaramente tutti gli articoli che ho letto, la maggior parte parlano di questo soft power della Russia, che cerca di conquistare appunto nuovamente un po' come le parti dell'antico impero dell'URSS. Poi in realtà, se vai a guardare bene, comunque ma sono debosciati e vanno a giro per l'Europa a spaccare il... No, stanno principalmente nel loro... No, allora si sono molto impegnati, sono lì nel Donbass a combattere, hanno proprio combattuto, hanno sequestrato a un certo punto facendo un mega attacco di tutte queste armi agli ucraini. Comunque sono... guerra vera. Quindi si rifanno, sono paramilitari da un lato, però appunto ce l'hanno... Che moto però. Che moto. I sidecar le usano? I sidecar no, però Putin... Ma che moto c'hanno, scusa? Larry Davidson, tendenzialmente. Americano? Sì. Però ce l'hanno a morte con l'America. Però Harley Davidson, principalmente. Come mentre a Putin gli avevano dato una mega moto con tre ruote. Gli avevano dato. C'è questa foto dove... moto mi piacciono molto. Il triciclo? Sì. Il triciclo gli hanno dato, evidentemente. E niente, fondamentalmente, vabbè, quindi vi stavo raccontando questa cosa. Vi terrò aggiornati, ci saranno novità, ma fondamentalmente sono dice che in realtà ne sono veramente partiti in una decina all'interno di questi furgoni, che quindi insomma questa cosa non sta andando granché. Vabbè, le seguiremo. No, cioè, non li seguiremo, no. Fondamentalmente, se ci sarà qualche notizia eclatante nei nostri Balcani, bene, ma tendenzialmente vediamo un qui. Po', vediamo un po' così come andrà. Ti ringraziamo molto tu. Questo tuo... Certo, perché queste cose non le sapevi prima, ora le sai. Dimmi. Era pezzo? Allora, vi mando un pezzo appunto che era molto caro agli inizi di questi concerti underground. Chissà. Beh, quando ancora erano un po' anarco. No. Esatto, quando erano ancora anarco. Moto Fight Club. Vai. Sono i Crocus, e il titolo del pezzo è proprio Night Wolf. Night Wolf. Ah, yeah. Molto male qui su Radio Wombat. Molto male. Thank you. back in the day. Chi è? Oh, belli, Gogol Bordello. Yuri! Viva Gogol Bordello, altro che Wolf. Cazzi, bomba. Loro sì. Vabbè, ragazzi, voi vi fermate sui vostri gusti personali, cioè, veramente limitati. Sì, ragazzi, vi accuso di ciò. Amico, lasciamo stare. Vabbè, e noi ci salutiamo. Il tempo è scaduto. Il tempo è scaduto. Miseramente scaduto. But I'm a Wanderlust King. Belli, vabbè. Viva Radio Wombat. Sì, viva, certo, fuoco alle polveri. Sentiamo lunedì prossimo. Rimanete sintonizzati. Tra poco sarà la rassegna eventi. Stasera Coccoli al silicio. Bravo. E niente, no, vi staccate comunque perché la notte repliche random. Repliche random. Musica, ciao. Vai, via. Pa, pa. History of a time. New history of time. Go how to Paul Berry. Radio Vomba. This is Radio Vomba. Sono contento di aver partecipato a manifestazione della bestia.